e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno Deborah, buongiorno ai nostri ascoltatori e buon Sant'Ambrose. Ecco, infatti aspettavo proprio che me lo dicessi in milanese. Ma perché... non lo so il milanese, perché sai che... Un po' più di me lo sai. Però insomma, ecco, dovrebbe dirsi così, Sant'Ambrose. Esatto, allora domani non si andrà a scuola in tutta Italia, mi pare, no? No. Per l'Immacolata. Qui a Milano si va a scuola oggi. E anche domani. E anche domani, se questi ragazzi fanno un super ponte, beati loro. Noi niente, speriamo. Ponte, noi lo scavalchiamo qua dentro questo ponte, però. Pensa che bello. Sono dal contenta per loro. Fino saltano, sì, anche il vanno sabato. A sciare sti ragazzi, cominciano a riposarsi in vista delle feste di Natale, quindi si preparano. Però perché così abbiamo un po' scomodato anche la questione dei ragazzi che si sono presi delle vacanze in questi giorni? Perché a proposito di scuola, ieri è arrivata una pagella impietosa, che è quella dell'OCSE, sul livello dei quindicenni delle nostre scuole, lontani anni luce dai risultati degli studenti di paesi asiatici come Singapore o Giappone, ma distanziati di parecchie lunghezze anche dalla maggior parte degli altri paesi europei. Tra l'altro, perché cito questa indagine? Perché noi qualche volta la utilizziamo anche per parlare dei temi dell'educazione finanziaria. La, come dire, scarsa preparazione dei nostri quindicenni poi ha questo effetto domino sulla distanza anche, e quindi significa anche non riuscire a formarsi adeguatamente anche sui temi finanziari e di risparmio. Sono stati diffusi praticamente i risultati dei nuovi test PISA, Program for International Student Assessment. I risultati sono stati diffusi in contemporanea a Bruxelles e in altre città, hanno coinvolto questi test 540.000 studenti di 72 paesi, e per l'Italia ancora una volta il quadro che emerge è poco incoraggiante, perché non ci sarebbe dal 2006, da quando questo test viene effettuato, nessun grande miglioramento nella loro formazione. Il test riguarda i ragazzi di seconda superiore e in particolar modo viene monitorata la capacità di lettura e le loro capacità appunto in materie come scienze. I risultati degli italiani sono inferiori alla media OCSE, quindi sufficienza striminzita in matematica, bocciatura in scienze in italiano. Stavo pensando che hai fatto saltare probabilmente il ponte a qualche ragazzo, perché un genitore ancora indeciso se far saltare il venerdì di scuola dirà: ho sentito a cuore denari che sei una bestia, vai a scuola venerdì, sabato, niente ponte. Ma tu a 15 anni come saresti andata in questo test, secondo io te? Guarda, ho iniziato molto bene, poi sono finita progressivamente Io invece facevo male. Il contrario, partivo malissimo per poi andare al recupero. A 15 anni però sarei stata bocciata in matematica, fisica sarebbe andato sempre molto meglio, appunto, in italiano, letteratura, queste cose qua. Ce la siamo cavati, chissà come andava a scuola il maestro Sciai, che questo pomeriggio a partire dalle 17.45 aprirà la stagione della Scala. Noi l'abbiamo avuto in diretta qua, non so se eravamo già insieme noi due. Potremmo dirlo, comunque, chiederlo a Carlo. Ecco, dobbiamo vedere, ma nel nostro archivio c'è un uomo straordinario, grande fascino. Benissimo. Va bene, ma noi partiamo. Partiamo, ma senti, ma lo chiediamo ai nostri ascoltatori qual è quel 4 in pagella indimenticabile per loro? Sì, io sono riuscita a prendere anche un 3 in un trimestre al liceo classico di matematica. Bene, io in fisica sicuramente me lo sono portato. Forse 3 però non ci sono arrivata, ma un qualche 4 ho portato a casa pure io. E voi 800 Carmelo 2 in matematica. Wow. C'era una mia amica Katia che prendeva 1 più in francese, poveretta. Io non so, vedevo quei voti, dico, ma secondo me non erano neanche contemplati nella gerarchia delle pagelle, invece avevano questo insegnante da incubo. Apriamo poi e la chiudiamo subito una piccola parentesi sui voti. Come fai a dare 2? Quando mai lo recuperi? Uno più ti sembra sensato? Vabbè. Detto questo, andiamo. I voti della borsa di oggi, via. Anche Rosa ci racconta che ha preso 2 meno meno in francese e va qua, cominciamo con dando i numeri stamattina. Allora la borsa anche oggi corre, ieri Milano ha fatto più 4,5%, oggi in rialzo di un punto, stamattina è ripartita molto bene qua. Tanto per cambiare, rivolano i titoli bancari. Vi faccio l'elenco: Monte dei Paschi più 7,62, Popolare dell'Emilia Romagna più 5,42, Unicredit più 4, Generali più 3, Mediobanca più 3, Telecom più 3, Unipol 6 più 2,20 e via andare. Il mercato che scommette sulla possibilità appunto che possa arrivare una soluzione rapida, intanto per le vicende di Monte dei Paschi, che comunque deve fare la ricapitalizzazione abbastanza presto, perché la BCE ieri non è che sia stata molto elastica nelle richieste fatte dall'amministratore delegato Marco Morelli. Comunque si tratta sull'aumento di capitale, sarebbe però pronto anche l'intervento pubblico e i titoli bancari oggi recuperano molto bene. Anche le altre piazze europee: Parigi più 1,18, Francoforte più 1,50, Londra più 1,13. E ricordo che naturalmente a questo punto l'attenzione focalizzata sull'appuntamento di domani con la Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Ieri, ricordo per concludere, che anche il Dow Jones, quindi il mercato americano, ha chiuso la seduta mettendo a segno un nuovo record, l'11esimo dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane, il 19esimo da inizio anno. Per cui dagli Stati Uniti mi pare che l'esito del referendum italiano e le sue implicazioni politiche sono bellamente ignorati. Detto questo, Andrea, il nostro primo approfondimento di oggi, che riguarda noi tutti, perché tutti utilizziamo il telefonino, tutti probabilmente abbiamo anche il servizio di segreteria telefonica. Nicoletta, non lo so, quando non ti chiamo scatta sempre, mi fai sempre così, ti devo sempre cercare, correre dietro e desiderare, non è vero? Se c'è il vizietto che abbiamo io e te, quello di rispondere immediatamente alle telefonate. E però insomma oggi parliamo di un problema che invece riguarda chi questa segreteria telefonica la lascia attivare. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato ad inizio di dicembre ben due provvedimenti nei confronti di due grandi operatori delle telecomunicazioni italiani, H3G 3 e Vodafone, con i quali appunto, con questi provvedimenti, la Agcom che cosa fa? Ordina la cessazione di condotte lesive dei diritti degli utenti con riferimento all'addebito per connessioni involontarie al servizio di segreteria telefonica. Sembra tutto molto nebuloso. Noi, per chiarire i termini della questione, abbiamo chiamato nostro grande esperto di tecnologia e non solo, elettronica di largo consumo, Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia dday.it, esperto di audio, video, elettronica di consumo, come vi dicevo, ma soprattutto anche un grande amico di Cuore e Denari. Come te la cavavi in matematica? Molto bene, era la mia specialità. Secondo te avrebbe fondato questo portale altrimenti? Giancarlo, allora raccontaci un po' che cosa significa questo pronunciamento, cosa significano questi provvedimenti della Agcom, perché quello di registrare magari senza volerlo un messaggio in segreteria telefonica è un grande classico, no? Però non è che stiamo parlando di questo. Da cosa derivano questi costi non previsti di cui parla la Agcom? Sì, allora la segreteria telefonica su cellulare funziona per chi la chiama, quindi come una normale telefonata, secondo il proprio piano, e quindi senza tariffazioni ulteriori. Quindi se io ti chiamo, trovo la segreteria telefonica, ti lascio un messaggio, ho fatto una telefonata, appunto, finisce lì. Normalmente tutti abbiamo ormai minuti infiniti o comunque molti minuti da consumare, quindi è un addebito praticamente nullo. Il problema interviene nell'istante in cui tu, che hai ricevuto il messaggio, vai a consultare la tua segreteria telefonica. E allora lì si paga. Questo non è chiaro a tutti, effettivamente. Invece quando uno consulta la propria segreteria telefonica, la paga, ma non come una telefonata. E paga un sovrapprezzo. Per esempio, facciamo degli esempi concreti, con Vodafone si paga 1,50 euro per ogni giorno in cui viene consultata la segreteria telefonica, anche un giorno qualsiasi. Ecco, 1,50 euro non è poco se si conta che oramai ci sono piani da 10, 12, 15 euro, quindi è un uno volendo potrebbe spendere 45 euro al mese. Infatti. No? Mentre con 3, per esempio, si spendono 20 centesimi, ma per ogni chiamata. Se io consulto la segreteria telefonica per 3 volte al giorno spendo 60 centesimi. Certo, è molto, no, stavo guardando che è molto curioso anche il modo con cui è stata avviata questa istruttoria da parte della Agcom, che si è aperta proprio a seguito della segnalazione di un utente che lamentava continui addebiti provocati dallo sfioramento involontario del tasto della segreteria sul proprio iPhone. Perché un po' il problema è anche questo, in realtà partono qualche volta involontariamente. Sì, perché sulla sullo schermo dell'iPhone, proprio dove c'è la tastiera telefonica, quella con i numeri, c'è anche il tasto diretto, la scorciatoia per accedere direttamente alla segreteria telefonica, quindi si può premere involontariamente. La cosa che ha sollevato le attenzioni poi della Agcom è il fatto che questi gestori di fatto addebitassero questi costi anche a coloro che hanno disattivato il servizio di segreteria telefonica, quindi erano ragionevolmente tranquilli che non potesse accadere più niente, perché ho disattivato la segreteria telefonica, in realtà si disattiva soltanto la possibilità di avere messaggi in ingresso. È un bizantinismo, evidentemente, perché se non ho messaggi in ingresso non avrei motivo, certo, di consultare la mia casella. Ma l'accesso alla casella resta attivo e tariffato, ed è questa condotta che la GCOM ha deciso di sanzionare, a mio personale avviso, in maniera assolutamente corretta. Gianfranco, due raccomandazioni per non rimanere vittime di nuovo di un problema di questo tipo ai nostri utenti telefonici? Beh, la prima raccomandazione è di guardare i propri consumi sulle app, perché queste chiamate sono ovviamente tracciate nei propri consumi, e quindi si può vedere chi e quanto diciamo abbiamo pagato per questo servizio. La novità del pronunciamento della GCOM, cui comunque ancora i gestori possono fare ricorso, è il fatto che la GCOM per la prima volta in maniera importante impone alle telco di rimborsare anche chi non ne fa esplicita richiesta, quindi tutti coloro che si sono visti addebitare impropriamente questi costi dovrebbero ricevere un rimborso completo di tutti questi costi. Allora ci ritorneremo sull'argomento, visto che hai parlato al condizionale, quando diventerà presente Gianfranco saremo pronti a raccontarlo. Grazie molte per essere stato con noi, a presto. Alla prossima. Buon ponte anche per te. Andiamo velocemente al traffico. Nicoletta, a tra poco. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 339. Dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Cuore e denari. La riconoscete, la Madame Butterfly, o meglio un'aria di Madame Butterfly, Un bel dì vedremo, che è intonata dalla protagonista, in questo caso una straordinaria Mirella Freni, durante il secondo atto dell'opera. E l'aria è un'aria che racconta la speranza di Madame Butterfly di poter rivedere un giorno il ritorno del suo amato. E proprio stasera Madame Butterfly, come saprete, aprirà la nuova stagione d'opera al Teatro alla Scala. A dirigere, come anticipato, ci sarà il maestro Chahi, nelle vesti di Chocho San, Madame Butterfly, il soprano uruguayano Maria José Siri, mentre il tenore Brian Himmel darà voce al bel tenente della Marina Americana, che prima seduce Chocho San, la illude sposandola e poi la tradisce per una vera sposa americana, spezzandole il cuore e portandola poi al suicidio. La regia è affidata ad Alvis Hermanis, penso di pronunciarlo, non so come si pronuncia esattamente, lituano. E la cosa interessante è che da 33 anni che la Scala non apriva con un'opera pucciniana, e ha scelto di farlo quest'anno con la versione originale di Madame Butterfly, che, pensate, quando debuttò alla Scala, 112 anni fa, siamo nel 1904, fece un grande flop. Lo stesso Puccini riferì di un vero e proprio linciaggio, che lo portò però, su pressione ricevuta dall'editore Ricordi, ad apportare delle correzioni all'opera, che venne poi applaudita in tutto il mondo. Anche noi naturalmente ci prepariamo, Deborah, ad applaudire. Tu dove la vedrai, perché... no, è in imperdibile, non ho l'abito adatto. È prevista la proiezione su maxi schermi nei luoghi più significativi della città, sarà trasmessa in diretta su Rai 1 in centinaia di sale teatrali e cinematografiche, ma una nostra amica ci andrà personalmente, quindi sì, con un po' di invidia ma tanta curiosità le abbiamo chiesto di mettersi in collegamento con noi, perché seguirà l'evento per Radio 24, quindi la sentirete anche nei vari GR. Marta, ciao! Ciao, che bello ogni volta che vengo a Cuore Denario. Io sono felice perché siete le mie preferite. Anche tu. Io mi sto preparando. Eh sì, cosa ti metti? Sì. No, adesso non immaginate, non mettetevi a immaginare un kimono da sera. Un kimono sarebbe bello, ma no, perché in realtà io, seguendola da cronista, corro tantissimo, vado a intervistare tutti, salgo in sala stampa, scendo nel foyer, quindi non metto gran tacchi, metto come sempre un tailleur nero da sera, molto molto elegante, con qualche sberluccichino però da qualche parte, esatto, con qualche sberluccichino sul top, sì. E una bellissima sciarpa di velluto nero, ma insomma tenuta perfetta da lavoro, molto elegante, tenetela d'occhio se andate. Tra l'altro stamattina leggevo che c'erano ancora 21 biglietti in vendita. Ti interessano, Deborah? 2.400 euro per un posto in platea. Noi possiamo fare una colletta in 2.400 e mandare sorteggiare uno, mandarlo. Tanto comunque va per noi, Marta. Senti, poi dopo ci sono delle anticipazioni, perché poi sai, la scala, la prima della scala è anche così, suggerisce anche un po' commenti, pettegolezzi, l'hai vista com'era, era ben vestita, mancava. Che cosa si dice? Allora, quest'anno ci si aspetta una scala un po' sottotono come gli anni scorsi, perché in realtà non sono più gli anni delle grandi Miss, ma quest'anno, vista la situazione politica, c'è stato ieri il forfè di tutti gli ex ministri, ormai possiamo dire così, quasi ex ministri. Quindi non ci sarà Padoan, non ci sarà Franceschini, non ci sarà il presidente Mattarella. Quindi diciamo che l'attenzione dei cronisti e anche di quelli che protestano fuori dalla scala sarà un sicuramente po' minore. Però qualche toilette ce l'aspettiamo per la scala e anche poi per la cena dopo. E dopo ci sarà questa cena. È la cena di gala, io non ci sono, non facciatevi illusioni, io arrivo subito in radio, subito dopo. Alla Società del Giardino. Un posto bellissimo di Milano, molto elegante. 7 metri, 12 chef, 5 pasticceri, 60 camerieri, 30 sommelier, 10 addetti alla movimentazione. Io sono movimentata da sola, non ne ho bisogno. Tu di movimento ne fai già su e giù per la scala, però poi scapperai di qua. Da noi. Sì, perché in realtà il mio lavoro è così, io arrivo nel pomeriggio, poi sono nel foyer a intervistare tutte le persone che arrivano, nel frattempo appena inizia l'opera salgo in sala stampa, taglio tutte le interviste e le invio direttamente in radio, perché poi ogni giornale radio facciamo dei collegamenti con le interviste. Quindi non perdetevi le interviste di Marta Cagnola, perché ci racconterà tutto quello che succede, e intanto però non perdetevi anche l'intervista che abbiamo raccolto al professor Luciano Bernardi, professore affiliato all'Università di Helsinki, che ha condotto proprio delle ricerche per misurare il potere della musica in generale e in modo particolare quello della musica lirica, che sembra sia in grado di rallentare il battito cardiaco ma anche di ridurre la pressione. Quindi abbiamo l'intervista al professore, se volete saperne di più sugli effetti terapeutici della musica in generale, della musica lirica in particolare, sul nostro sito trovate l'intervista del professor Bernardi. Grazie a Marta, buona scala. Grazie, buona prima. Questa sera inizia alle 18. Puntuali. Durata? Allora, sono 60 più intervallo di 30 più 90. Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Allora, lo abbiamo anticipato nel corso del nostro giornale radio, peraltro abbiamo parlato anche un pochino di scuola all'inizio della trasmissione, ma diamo lettura di tutti i messaggi che ci hanno mandato questi nostri ascoltatori super asini quando andavano a scuola per poi riscattarsi alla grande nel corso della vita vera. Leggo l'ultimo, quello di Danilo, poi Nicoletta ti sbizzarrisci con gli altri. Cuore denari, allora giugno 66 rimandato a settembre in matematica con 4, poi settembre 66 promosso con 7, marzo 74 laureato in ingegneria al Poli di Toscana, Politecnico Toscano, con 100 su 110. Sono soddisfazioni, dice Danilo. Visto? Bravo Danilo. E poi per un 4 in chimica, esatto, mi è venuto in terza ragione, di testa, esatto, ho pianto, 2 in disegno, rimandato in greco, latino e matematica, fuggì dal classico, passai al linguistico, oggi sono un traduttore simultaneo. No, aspetta, Giorgio da Padova, una volta ho preso 4,5 in latino. Mia mamma andò a parlare con la professoressa che le fece i complimenti perché era stato il secondo miglior compito della classe. E bravo Giorgio! E insomma, dai, vabbè, ognuno di noi c'ha il suo 4 come scheletro nell'armadio, ma anche 3, ma persino stato, uno più, abbiamo detto prima. È stato bello, il 2 in latino definito dalla prof di incoraggiamento. Dai, ti do 2 per incoraggiamento. Bravo. Massimo. Allora, chissà che pagella aveva Sergio Govi, giornalista di tuttoscuola.com. Sergio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E beh, è una privacy la mia, comunque posso dirlo tranquillamente. Anch'io sono passato attraverso... inspiegabili voti bassi rispetto alle mie attese. Io ho avuto un'annata in cui credevo di essere eccellente in matematica e venni rimandato per poi rifarmi proprio ampiamente, cioè, proprio in matematica. Guarda, io la capisco della realtà. Perché io la matematica credevo di capirla e finito ogni compito pensavo di aver fatto un ottimo compito. E poi era sempre un disastro. Allora, chissà se gli insegnanti con i quali ci siamo imbattuti noi e che hanno inciso tanto anche poi in quello che sarebbe stata la costruzione del nostro futuro, della nostra vita professionale, se avessero preso questi 500 euro, no? Sì, Sergio? Euro. Sì, infatti, che sono questo borsellino praticamente che ha questo valore contemplato nell'ambito delle tante iniziative della buona scuola, chissà se sarebbero stati un po' più buoni. Detto questo, quello che oggi è il tema del nostro approfondimento di denari è proprio questo, perché dal 1 dicembre è attivo www.cartadeldocente.istruzione.it, che è il sito per poter andare a fare richieste e poter usufruire del bonus da 500 euro per la formazione degli insegnanti. Allora, noi oggi vi spieghiamo e vi riepiloghiamo tutti i termini della questione, vi spieghiamo come andare a fare la domanda e la compilazione appunto del format che è presente sul sito. Bisogna anche costruire la propria identità digitale per poter avere accesso, e poi ci sono tanti temi aperti che ci hanno segnalato anche alcuni insegnanti, e lo hanno fatto probabilmente anche agli amici di tuttoscuola.com, perché a quanto pare, e la prima ad avermelo segnalato è stata mia sorella questa mattina presto, segnalate il fatto che ci sono molti esercenti che praticamente non si accreditano al programma e quindi non ci danno la possibilità di spendere, perché non sono contanti, non è un assegno, no Sergio? Spieghiamolo subito, ma un vero e proprio, come dire, borsellino virtuale che contiene questo denaro, ma che si deve spendere secondo determinati parametri e criteri. Sì, esatto. Se vuoi facciamo anche una rapida cronologia. Certamente, rifacciamola a beneficio di chi non sa nulla di tutta questa operazione. Certo. Gli insegnanti però dovrebbero saperlo. Sì. Nella buona scuola... è stata fatta una scelta molto forte, che è quello di investire, anzi rendere obbligatoria la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti. Era la cosa minima che si potesse fare, ma da 15 anni attraverso il contratto non c'era più l'obbligo di aggiornarsi. È stato ripristinato l'obbligo, però contemporaneamente la buona scuola ha previsto anche una risorsa, un aiuto per attuare l'aggiornamento, prevedendo addirittura 500 euro annui a disposizione degli insegnanti da spendere personalmente, individualmente, secondo scelte tutte autonomamente definite da ciascuno. L'anno scorso essendo partita la legge da poco, non c'è stato modo e tempo per preparare uno strumento adatto, hanno messo in busta paga i 500 euro, poi hanno detto spendeteli, tenete conto, raccogliete le fatturazioni e quant'altro, la documentazione a fine anno, le rendicontate per la vostra scuola. La cosa è avvenuta abbastanza bene, problemi della scuola a rendicontare, poi finalmente il capitolo del cash immediato si è chiuso. Esatto, quest'anno ci si è subito strutturati invece in maniera diversa. Esatto, è una maniera diversa che prevede quello che tu chiamavi un borsellino. Un borsellino a disposizione, ma è virtuale, nel senso che non ci sono più i soldi, ma ci sono degli strumenti per poter spendere. Quindi, spendere come, Sergio? Andiamo subito a spiegarlo. Insomma, si tratta di... Allora, ci sono tre passaggi necessari. Prima di tutto, e questo è un po' per qualcuno una complicazione, perché per chi non è abituato, così molto familiarizzato con tutte le strumentazioni digitali, è quello di accreditarsi, cioè con lo SPID, che è il sistema pubblico di identità digitale, il docente di ruolo, sono solo quelli di ruolo statali che possono avere questa possibilità, debbono passare presso un ente che è stato, ce ne sono quattro, Poste Italiane, InfoCert, Scelto Team, e vanno, sono i gestori, vanno ad accreditarsi presentando il documento di identità e alla fine vengono registrati e quindi hanno uno strumento, proviamo a pensare al bancomat, hanno un codice, un elemento identificativo che dà loro la possibilità di essere individuati, esatto. Hanno le credenziali per poter fare che cosa? Per avere la disponibilità, intanto questa teorica disponibilità finanziaria, ma che non è tanto teorica perché poi delle spese concrete si possono... Hanno soltanto avuto le credenziali e questa è la prima fase. Finita questa fase, debbono andare a registrarsi sul sito del Ministero cartedeldocente.it e con questo entrano nel sistema. Si trova su questo sito, nella home della pagina della carta del docente, la voce dove spendere i tuoi buoni. Sì, ecco, quindi a questo punto loro sono entrati nel sistema, nella piattaforma e hanno la validazione per poter spendere. Debbono, e quindi è la seconda fase, la prima è lo SPID, la seconda è carta del docente, la terza è spendere. Tu dicevi che ci sono difficoltà ad accedere a... Perché non è che uno che si iscrive là poi dice ok, adesso vado al supermercato e ci faccio la spesa, e no, qua c'è un altro passaggio, ecco. Naturalmente, coerentemente con lo spirito di tutta l'iniziativa, occorre fare delle spese che servano appunto a, teoricamente, garantire la formazione professionale dell'insegnante, no? Certo, Sergio, c'è un lungo elenco di possibilità che vanno dall'acquisto di uno strumento digitale, del libro, l'accesso ai musei o a una mostra, la partecipazione a un corso di formazione, però tutto questo prevede che dall'altra parte ci sia un ente, un soggetto, un gestore che riceve la tua richiesta. Certo. Ecco, siamo in questa fase abbastanza, non dico problematica, perché c'è tutto il tempo dell'anno anche attivare l'identità digitale non è che fosse proprio semplicissimo, perché un po' di tempo gli insegnanti hanno dovuto spenderlo per mettere in piedi tutta la loro impostazione digitale. Ecco, non è che ti accrediti in due nanosecondi, ecco, ci vogliono anche dei giorni, diciamo, poi. Aggiungiamo anche il fatto che alla scadenza, in questi giorni, a cavallo della fine novembre, primo dicembre, l'hanno fatto teoricamente 740.000 persone, quindi su una platea di quanti, Sergio, abbiamo il dato? 740.000. Sì, su quanti, e quanti potrebbero teoricamente farlo? Cioè, sono teoricamente tutti e 740.000. Togli alcuni, poi quelli sono i virtuali, poi alcuni non sono ancora entrati in ruolo, quindi saranno 700, facciamo 700.000, ma 700.000 che quasi nello stesso momento voglio accedere, mandano in tilt il sistema, quantomeno lo rallentano. Aggiungi il fatto che gli insegnanti, non tutti, ma i più anziani, probabilmente non hanno dimestichezza con la strumentazione digitale, e questo ha reso un po' il problema. Però il problema vero a questo punto è finalmente, poiché lo puoi fare anche dopo il 30 novembre, anche dopo a dicembre, a gennaio, quando vuoi, quando finalmente hai tutto, cioè sei accreditato, hai il tuo codice e tutto il resto, vai per comprare, devi trovare l'esercente che sia abilitato. E questa è la seconda fase, ancora un po' problematica, perché diversi gestori, da quel che risulta, non si sono ancora registrati. Certo. È una registrazione gratuita, ma se quelli non si registrano, tu non puoi andare dove ti pare a comprare. Questo è il problema. Io so che Confcommercio e altre associazioni di categoria hanno già dato le indicazioni ai loro iscritti esercenti per procedere alla registrazione. Chiarissimo. Alcuni però mi presentavano un problema, ma non c'è chiarezza, e il Ministero dovrà far presto a chiarirlo, su quando potranno incassare la somma pattuita. Cioè tu dici dovunque. Gli enti che si accreditano eventualmente a partecipare a tutta l'iniziativa, quindi per esempio se io sono un negozio che consento ad un insegnante di acquistare una rivista, una pubblicazione utile al suo aggiornamento professionale, mi accredito al programma, però è necessario che abbia la garanzia che il Ministero mi rimborsa più o meno, non dico immediatamente, ma in tempi ragionevoli, no? Quindi c'è questa la parte che manca ancora, la certezza su questo. L'anno scorso i soldi erano pronta cassa, quindi incassavano subito. Oggi non c'è nulla di chiaro sui tempi e le modalità di rimborso. Quindi io ho saputo da alcuni esercenti che esitano perché vorrebbero capire se vale la pena. Conosciamo bene il problema dei ritardi della pubblica amministrazione fare qualunque tipo di pagamento, quindi possiamo immaginare che anche in questo caso, insomma, non possa accadere qualcosa di diverso e di migliore rispetto ad un trend già noto che invece è non tanto positivo, Sergio. Sì. E quindi insomma i problemi aperti sono ancora questi. Detto questo, è solo da pochi giorni che praticamente gli insegnanti hanno la possibilità di costituire la propria identità digitale e iscriversi al programma del Ministero appunto dell'Istruzione, che consente di ottenere questi 500 euro da utilizzare ai fini di aggiornamento. Che tipo di informazioni ancora dobbiamo far passare ai nostri ascoltatori, che magari se vogliono possono anche utilizzare gli ultimi minuti che ci rimangono per chiamarci all'800 24 00 24, quelli che non sono a scuola, ma immaginiamo allora, che a quest'ora sia un po' difficile. Io consiglio, cosa che una settimana fa forse non era ancora possibile, ma adesso c'è ed è abbastanza chiara, di entrare nel sito del Ministero, www.istruzione.it, e andare sul, c'è uno spazio dedicato che è Carta del Docente. Nella Carta del Docente ci sono, e per i docenti e per gli esercenti, delle FAQ che sono abbastanza chiare, esplicative, guidano l'insegnante o l'esercente in tutte le operazioni da compiere per arrivare. Quindi il primo consiglio è andate a leggervi le FAQ e troverete forse risposte. Là dove non ci sono risposte, noi consigliamo, ad esempio, tutto scuola è pronta a ricevere richieste di chiarimento, che noi, là dove le FAQ non bastino, noi potremmo farci carico delle richieste da avanzare al Ministero. Voi di tutto scuola, dici, Sergio? Ulteriore. Certo. Dia chiarezza ulteriore su tutto l'argomento. Tra l'altro sarebbe anche utile magari fare dei link regione per regione con l'elenco di tutte le strutture, gli esercizi commerciali accreditati, no? Così gli insegnanti non perdono tempo ad andare a chiedere a quelli a cui si rivolgono abitualmente. Nel sito del Ministero stanno apparendo, ma anche sono queste liste. Tutte le scuole, tutti i musei sono già registrati di per sé, mentre invece gli esercenti privati, diciamo, o d'altri stanno arrivando, non dico con contagocce, ma lentamente, forse per le questioni che ti dicevo prima. Certo. Vabbè, dai, ancora anche presto. C'è l'elenco. Certo. Ti faccio sentire Ettore da Milano. Sergio, poi ci salutiamo. Intanto segnalo anche che è da poco online il nuovo sito di tuttoscuola.com. So che gli amici appunto di questo sito ci tenevano, visto che è sempre super aggiornatissimo, e soprattutto ci sono tutte le informazioni molto dettagliate sulla procedura che invece noi vi abbiamo raccontato ora a voce. Ettore, veloce, grazie, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Una cosa velocissima. Io, mia moglie che è insegnante, ha 51 anni e l'altra sera insieme abbiamo fatto la procedura, no? Accreditandoci sul sito delle poste. No, l'unica cosa che segnalavamo, siccome l'accreditamento per l'identità digitale prevedeva anche di fare delle scansioni di documenti, abbiamo fatto tutta la procedura. Dopo si è recata presso uno sportello delle poste, perché bisogna andare di persona per fare il documento, vero. E poi hanno detto che la scansione del documento non si vedeva. Vabbè. Però strano, però a questo punto cosa è successo? Mia moglie era lì e ha detto vabbè, vi do il documento e proseguiamo. No, hanno detto che doveva rifare la procedura, certo. Perché facendo la scansione la procedura andava rifatta, certo. E quindi deve ritornare un'altra volta, certo, alle poste, appunto, per... questo perché ha contato fino a 10, ha fatto e siete andati a prendere un caffè. Grazie Ettore. Sì, Sergio, prego, eccolo qua un altro caso da segnalare al ministero, se voi vi volete far portavoce. Un marito appunto innamorato, vedi che l'aiuta. Dalle poste io so che vogliono avere la certezza, non sia i clienti, del documento d'identità, certo. Quindi capisco come forse in maniera eccessivamente rigida quell'impiegato abbia voluto avere la certezza dell'identità della persona. Sergio, grazie per essere stato con noi, però insomma la raccomandazione che noi facciamo è, se anche un po' vi risulta complicato e qualche negozio vi dice no, qui da noi non è possibile consumare questo denaro, insistete, non perdiamo queste opportunità, facciamo in modo invece che possano migliorare nel loro funzionamento. È una bella occasione, è una delle belle qualità, non tutte sono belle, della buona scuola. Della buona scuola. Allora, un'altra volta Sergio ti chiamiamo, ci fai l'elenco di tutte invece le cose che non funzionano e sollecitiamo potenziale nuovo governo anche in termini di miglioramento. Grazie molte per essere stato con noi. Nicoletta, buongiorno, buon grazie, lavoro. Grazie, auguri. Grazie Sergio, grazie e auguri se non ci sentiamo. Tuttoscuola.com. Un'infermiera adesso... ci scrive. Sì. Hai letto. Perché non istituire anche un bonus buona sanità per corsi di aggiornamento per infermieri? Abbiamo l'obbligo di aggiornamento. Giustissimo, sì. Ci scrive. Ma i corsi con costi molto elevati. Francesca ci scrive da Roma, che salutiamo. Bene, noi invece adesso salutiamo questa parte di denari solamente con l'ultima costoletta, che è quella della borsa. Tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amo il padron mio, un catalogo è che ho fatto io, osservate, leggete con me. E dopo Madame Butterfly riprendiamo il passo con un estratto del primo atto di un'altra opera, il Don Giovanni, personaggio leggendario. Io l'ho visto all'Arena di Verona, vedi? Meraviglioso. Abbiamo scelto quest'opera soprattutto per parlare del Don Giovanni, personaggio che ci dà lo spunto per parlare di un disturbo che per molto molto tempo è stato associato, sentiamo, e considerato più che altro espressione di una vivace ars amatoria, la gotta. Certo. Un tempo infatti il gottoso era considerato uomo dall'attività sessuale molto intensa, proprio come il Don Giovanni. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, qual contesse e baronesse, marchesone, principesse, e madone, doni, cavo, doni, madone, doni, madone, doni, e tra l'altro proprio il Don Giovanni a firma di Robert Carsen e diretto da Daniel Barenboim aprì la stagione teatrale della Scala nel... Facciamo il domandone. Vai. Cosa regaliamo? Non il biglietto da 2.400 euro rimasto vagante per stasera. Vuoi regalarmi? Cioè, no, vuoi, se tu vuoi regala. Mi piacerebbe andare una volta alla prima. Vabbè, dai, per noi anche la seconda sarebbe già impraticabile. A vedere tutta quella. Però sai che ci sono le possibilità di acquistare anche last minute di biglietti, appunto, per vedere delle cose belle alla Scala. Sì, magari questo. Non il 7 dicembre, però in altri momenti dell'anno ti porto. Volentieri. Allora, tra l'altro, avevamo parlato del prima Madame Butterfly, che fu un fiasco. Questa invece del Don Giovanni fu un grande successo, ovazioni a pioggia, fiori, 11 minuti di applausi. Scoprite l'anno 800240024. Grandi applausi, e vorrei salutare con un applauso il nostro prossimo ospite, perché qua al 7 è tutto... Il professor Claudio Borghi, che è tornato a trovarci, direttore. Una cosa straordinaria. Ma guardi, ma noi siamo di festa oggi. Perché a Milano. Lei è anche un po' Don Giovanni, professor Io, Borghi. Vorrei esserlo, probabilmente molto di più di quanto lo sono. Credo che sia il sogno di qualsiasi uomo. Per cui questo applauso mi rinfranca anche nella mia autostima. Senta, professore, come mai il Gottoso era considerato un Don Giovanni? Insomma, un uomo, direi, vivace, dalla vita sessuale molto intensa. Che cosa... Probabilmente perché il problema dell'acido urico è molto spesso legato al fatto... dell'ingestione di determinati cibi, quindi probabilmente chi faceva una vita un pochino più gaudente aveva anche un'alimentazione vantaggiosa da questo punto di vista, che gli permetteva di fare una vita gaudente, ma contemporaneamente modificava i livelli di acido urico. Io ne ho letto un'altra che volevo sottoporle anche magari a qualche medico o gottoso in onda. Ho letto che, dato che il gottoso aveva male all'alluce, alla punta dell'alluce, si pensava che fosse questa bruciore, questo rossore sull'alluce, fosse praticamente il segno di uno sfregamento dell'alluce sulle lenzuola. E mi fermo qua. Che depravata che potrebbe sei. Essere. Beh, è molto descritto questo, il fatto che le lenzuola siano erano ruvide, dolorose, ecco, sulle lino antico. Era il lino adesso, se invece ci fosse le lenzuola di seta, questo niente, non sarebbe avvenuto. Ma noi torniamo. Perché non mi sarei mai permesso di avanzare questo tipo di ipotesi, ma se lo fa lei posso accodarmi a questa interpretazione. Vede, mi ha dato un po' della insomma. No, lei è padrona di casa, la differenza è questa. Senta, allora lasciamo da parte Don Giovanni e concentriamoci sull'acido urico, o meglio sui livelli di acido urico nel sangue. Nessuno finora aveva mai sospettato che anche l'acido urico potesse essere un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, ignorato dai più, noto soltanto, come abbiamo così detto, a chi soffre di gotta. Invece, e i medici lo sanno bene, un nuovo nemico per cuore e vasi, che dovremmo tutti imparare a conoscere. Per questo, in questo giorno di festa, partendo dal Don Giovanni, abbiamo pensato di informare i nostri ascoltatori. Intanto, professor Borghi, ci spiega perché è così importante per il benessere della nostra circolazione? Ma fondamentalmente l'acido urico è un prodotto di scarto del nostro organismo, è il prodotto finale della degradazione delle proteine, quindi qualcosa che è assolutamente indispensabile per avere una vita sana. Al termine della degradazione delle proteine si produce questa quantità di acido urico, che in passato si riteneva potesse essere particolarmente pericolosa soltanto quando era francamente eccessiva e generava il problema della gotta. Poi ci si è resi conto invece, anche sulla base di molte delle evidenze che sono emerse da questo nostro recente convegno, che il meccanismo che produce l'acido urico, quindi quello che noi chiamiamo la reazione biochimica che produce dell'acido urico, genera un vecchio nemico della parete arteriosa, che è il cosiddetto stress ossidativo, del quale anche voi parlate molto spesso. E questo stress ossidativo legato alla produzione dell'acido urico è quello che genera un aumento della probabilità di sviluppo della malattia aterosclerotica, e quindi dannoso per il cuore, per i vasi e per tutto quello che riguarda la nostra circolazione. Molto probabilmente tanti italiani hanno l'acido urico sopra i livelli di norma, ma non lo sanno perché pochi lo controllano. Come si misura l'acido urico? Molto professore. Semplicemente, un dosaggio nel sangue dell'acido urico, quindi un semplice prelievo di sangue, qualcosa che deve essere aggiunto quando si fanno gli esami, di un costo terribilmente contenuto, che può dare invece un universo di informazioni utilissime. Ad esempio, come abbiamo anticipato? ad esempio non solo la probabilità ovviamente di una malattia gotosa, ma soprattutto la probabilità che si sviluppi ipertensione arteriosa, che è forse la cosa più strettamente correlata all'iperuricemia. La maggior parte degli studi dicono che gli iperuricemici, anche asintomatici, diventano molto più facilmente ipertesi, ad esempio lo sviluppo di complicanze cardiovascolari, ad esempio lo sviluppo di insufficienza renale, sono tutte cose che noi possiamo prevedere sulla base dei livelli di acido urico e quindi come tale possiamo anche intervenire in una strategia di prevenzione precoce, quindi è un dato estremamente utile. Andiamo ai valori, quali valori dovremmo aspettarci, professor Borghi? Ecco, in questo caso dobbiamo distinguere sostanzialmente, lo faremo molto brevemente, tra i soggetti gottosi e i soggetti non gottosi. I soggetti gottosi, quindi quelli che hanno evidenza di artrite da deposizione di cristalli di gotta, debbono mantenere i livelli di acido urico inferiore a 6 mg per decilitro in maniera assoluta, in alcuni casi 5 mg per decilitro se le manifestazioni gottose siano particolarmente aggressive. Nella prevenzione cardiovascolare ancora non abbiamo dei cut-off così importanti, ma sicuramente è utile ed è importante ridurlo in maniera determinante quando i valori sono superiori a 8 mg per decilitro, mentre fra 6 e 8 è fondamentale adottare uno schema dietetico che cerchi di ridurlo o mantenerlo il più basso possibile. Professore, quando lei parla di soggetti gottosi, a chi si riferisce esattamente? Ci possono essere delle persone che hanno la gotta e non la sanno, la confondono con un altro problema? Questo è un argomento molto dibattuto, molto importante. Allo stato attuale delle conoscenze, per non creare troppa confusione, direi di no. Il gottoso inizia a essere gottoso nel momento in cui compaiono manifestazioni di coinvolgimento delle articolazioni, quindi la classica storia di Don Giovanni della quale lei ha parlato, o quello che incideva sulla famiglia dei Medici. Ci sono un sacco di racconti storici di gotte che hanno in qualche modo intercettato famiglie importanti o nobili nel nostro paese. Quindi c'è il dolore, vero, c'è professore? Dolore, c'è l'infiammazione, ci sono tutti notturno, quei segni caratteristici che si ricorda bene, hanno attraversato anche molti dei nostri filmetti comici, almeno quando io ero ragazzino. I filmetti di Stanley Olio, c'era sempre un signore con un piedone in alto che prendeva delle botte terribili, e quello era il classico piedone del gottoso, perché loro bevevano un sacco di alcol e mangiavano carne, era la tipica abitudine degli americani. Oggi si tende a ritenere che anche i depositi non sintomatici, quindi questi depositi iniziali di acido urico sulla parete delle articolazioni, che possono essere diagnosticati in maniera semplice con l'ecografia, possono rappresentare uno stadio iniziale della gotta. Ma quando lei, professore, mi ha anticipato che il livello dell'acido urico potrebbe prevenire e predire l'insorgere di ipertensione e poi credo anche sindrome metabolica, certo, e malattie renali, certo, mi allargo anche il diabete, certo, quel predire di quanto cosa significa esattamente? Di quanto tempo prima? Di parecchio tempo prima, direi di parecchi anni prima, nel senso che ci sono dati che dimostrano che se prendiamo due soggetti che abbiano la pressione perfettamente normale, uno normouricemico, uno iperuricemico, le loro due curve di probabilità di sviluppare ipertensione tendono a separarsi in maniera evidente 6-7 anni prima dello sviluppo di ipertensione, quindi comunque un indice estremamente precoce, e molto probabilmente lo è ancora di più se andiamo indietro nella storia naturale, nella gotta, a coinvolgere ad esempio l'età dell'adolescenza, dove già esistono aumenti dei livelli di gotta, aumenti della pressione, che possono poi ripresentarsi in maniera molto più pericolosa nell'età adulta. Quindi sicuramente è un predittore distante. E questo ci piace. Andiamo a Messina. C'è Stefano. Buongiorno. Prima delle informazioni sul traffico. Benvenuto. Buongiorno a voi. Sentite, io ho ascoltato il tema della trasmissione. Un attimo, Stefano. Ah, sì, ok. No, vada calmo. Ok, ho 51 anni e sono stato colto da attacchi di gotta di notte, attacchi di dolore fortissimo all'alluce. Ecco, mi coricavo quindi bene, ma di notte un dolore che non si può descrivere, è un qualcosa che davvero... Toglie il fiato, vero? Certo. Sì, una cosa che non si può camminare, ci cerca di sollievo in qualsiasi modo, ma non si ha. Ho fatto gli esami e mi è stato detto che l'acido urico ha avuto un picco e poi si è depositato, cristallizzato nell'alluce. Io ora ho uno stile di vita normale. Sono sposato, felicemente, non ho tipi di vita. No, ma guardi, che questa della che io ho letto, perché se ne parla. Cioè, adesso non è che tutti scatenato adesso, però, no, voglio no, dire, ansia. Uno può avere anche un'attività sessuale intensa con la propria compagna, ben venga. Comunque, stia lì, Stefano, perché Carmelo vuole che dia le informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo insieme. Vedi che la gotta viene di notte, come la Befana. Cuore e denari. Madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamo il padron mio. E riprendiamo con il Don Giovanni a firma di Robert Carsen, diretto da Daniel Barenboim. Aprì la stagione teatrale della Scala nel 800 24 00 24. Chiamateci, stanno già rispondendo, sì, sì. Sono già bravi, ma in linea con noi abbiamo Stefano da Messina, che ci ha raccontato la sua storia. La gotta arriva di notte, il suo alluce si infiamma, ha un dolore terribile. Professor Borghi, abbiamo detto di notte un dolore lancinante, certo. Stefano ha avuto questo picco di acido urico che poi si è cristallizzato, ma adesso che fare? Stefano ha raccontato un'esperienza perfetta del tipico paziente gotoso, il dolore insopportabile, la gota è sicuramente l'artropatia più dolorosa che esista e viene descritta da tutti i pazienti con le stesse caratteristiche. La ricorrenza notturna, che è dovuta al fatto che il dolore si accentua sempre durante la notte, ma esistono anche degli aspetti di tipo biochimico, di composizione del sangue, che accentuano il dolore, e il terrore che i pazienti hanno, e in questo caso Stefano, che il quadro si ripresenti. La cosa non è assolutamente automatica, Stefano deve necessariamente tenere uno schema dietetico adeguato che introduca pochi precursori dell'acido urico, e al tempo stesso immagino il suo medico, colui che lo segue, gli avrà dato una terapia che è fatta di farmaci che bloccano la produzione di acido urico e quindi impediscono la sua deposizione a livello dei tessuti. Ciò che è importante ricordare è che una volta che l'acido urico si è depositato, la sua ulteriore deposizione è facilitata, e per questo motivo i livelli di acido urico devono essere tenuti costantemente più bassi, al di sotto di quella quantità nel sangue che lo fa depositare nelle articolazioni. Perché acido urico chiama acido urico. Lei ha parlato dei precursori, e quindi sono quali alimenti sono proteine? Quello che noi chiamiamo purine, che sì, sono il prodotto finale della degradazione delle proteine, quindi tutti i cibi che contengono proteine, l'emblema è naturalmente la carne. Anche prima, parlando di Don Giovanni, avevo fatto questo tipo di riferimento, perché in generale si considerava la gotta come la malattia dei ricchi e dei nobili, ma semplicemente perché i ricchi e i nobili mangiavano quantità molto maggiore di carne rispetto al popolo e quindi ovviamente incorrevano più facilmente in questo problema. Ma queste purine, che sono il prodotto finale della degradazione delle proteine, a loro volta, per una reazione biochimica della quale l'uomo e tutti gli animali sono dotati, vengono trasformati in acido urico. La sfortuna è che noi, come le scimmie, purtroppo non siamo in grado di trasformarlo ulteriormente e quindi abbiamo il rischio che si depositi nei tessuti, mentre tutti gli altri animali, escluso il cane dalmata, sono in grado di metabolizzare l'acido urico, trasformarlo in una sostanza inerte che viene eliminata con le urine. Quindi questo problema è un problema tipico dei primati e in particolare dell'uomo. Professore, nel vostro ho letto che anche alcuni farmaci, tra cui proprio i farmaci per il controllo della pressione, possono alzare i livelli di acido urico. In questo caso possiamo dare un messaggio positivo e un messaggio negativo. I diuretici tendono ad aumentare i livelli di acido urico, non tutti nella stessa identica misura, a seconda delle caratteristiche biochimiche delle farmacologiche, ma in generale la terapia diuretica tende a aumentare l'acido urico perché riduce la capacità del nostro rene di eliminarlo. Per contro ci sono altri farmaci, in particolare uno che si chiama losartan, che è un bloccante dei recettori dell'angiotensina, che invece ha un effetto esattamente opposto, tende ad aumentare l'escrezione di acido urico, per cui noi che trattiamo l'ipertensione di solito teniamo conto dei livelli di acido urico anche nella scelta dei farmaci antipertensivi. Ma ai nostri ascoltatori che sono in trattamento per l'ipertensione, possiamo dire magari stanno iniziando la terapia, si avvertono dei dolori sospetti, di avvertire il proprio medico. Di avvertire il proprio medico, fare un dosaggio dell'acido urico per vedere come vanno le cose, perché molto spesso la soluzione non è una soluzione drastica, ma basta semplicemente modificare lo schema schema di terapia, passando a un altro farmaco altrettanto efficace ma che non abbia nessun effetto sui livelli di acido urico. C'è Francesco, ci scrive da Rovigo, l'hai letto Deborah, al 349-238-6666, dice: sono vegetariano, sono astemio e ho da molti anni l'acido urico alto. E questo fa coppia con un'altra ascoltatrice che ci manda un messaggio preoccupata perché ha legato dal suo intervento, ma correttamente naturalmente, i livelli elevati di acido urico con la possibilità di sviluppare delle malattie renali. Quindi la domanda è: se ho uno stile alimentare adeguato, se in questo caso ad esempio vegetariano, non mangia proteine animali, se sono assolutamente, ho uno stile di vita perfetto e ho questo acido urico che voi mi dite che è predittivo di una serie di problemi che vanno dall'ipertensione al diabete a malattie renali e chi più ne ha chi più ne metta, che faccio? Stupende domande che ovviamente affrontano un universo straordinario che fino ad oggi è rimasto pressoché ignoto. Il problema del fatto di essere iperuricemici pur essendo vegetariani è plausibile. Primo, perché l'iperuricemia è una quota genetica importante, ci sono molti gottosi che lo sono perché geneticamente hanno una incapacità di eliminare l'acido urico, per cui in pratica, poiché una parte comunque viene prodotta perché è parte naturale della nostra vita, se quella viene riassorbita in maniera eccessiva può generare la gota. Quindi la dieta può essere soltanto un momento integrativo, ma non può essere la soluzione totale. Secondo, ci sono proteine anche nei vegetali. Ad esempio le leguminacee in generale, i fagioli, le lenticchie contengono proteine, queste proteine vengono degradate a quei precursori che a loro volta generano acido urico, per cui sarebbe necessario anche nella scelta degli ortaggi e dei vegetali rivolgersi a quelli che riducono l'acido urico, il carciofo, la cipolla ad esempio, le zucche, il sedano, la carota, quindi evitando altri che sono vegetali ma che comunque contribuiscono. Ne abbiamo già dato 5, facciamo i 5 alimenti che riducono l'acido urico. Allora ripetiamoli: carciofo, cipolla, zucche, sedano e carota, sicuramente, e carota. Insieme al latte. Il latte e i latticini hanno un effetto estremamente favorevole nei confronti dei livelli di acido urico e dovrebbero essere tranquillamente utilizzati da questo punto di vista. Quindi non consideriamo che i vegetali siano privi di proteine proprio perché sono vegetali, è un errore considerare che le proteine stiano soltanto nei cibi a base di carne, quindi questo nostro ascoltatore dovrebbe tenere conto di questo aspetto. Per quello che riguarda l'altro aspetto sottolineato dall'altra ascoltatrice, sicuramente sì, l'acido urico può essere il generatore di alterazioni della funzione renale, anche di altre condizioni associate, e quindi ovviamente se esiste una condizione di base che lo possa favorire è necessario tenere conto anche di quello nella valutazione generale del danno possibile da acido urico. Abbiamo Luigia, chiudiamo in bellezza con Luigia, ci chiama dalla provincia di Monza Brianza per rispondere al nostro domandone di oggi sul Don Giovanni. Luigia, è melomane Luigia a lei. E grazie di esistere. Grazie. La domanda è, la risposta è 2011. Esatto. Grazie. Così bene. Che cosa le mandiamo? Beh, visto che non posso avere il biglietto per la prima serata, neanche per la seconda, non so. Vedremo un biglietto dell'autobus, magari Luigia le possiamo mandare. Dai, per venirci a trovare, perché no? Un libro per Luigia, sceglieremo, certo. Uno di cuore e uno di denari. Assolutamente. Grazie a Luigia, complimenti. Grazie al professor Borghi per essere stato con noi in questo Sant'Ambreuse. Sai, stavo pensando ai 5 alimenti per combattere l'acido urico. Sarà stato contento il nostro architetto che vuole le informazioni mordi e fuggi per affrontare i problemi. Viperina. A domani. A domani, buona giornata a tutti.